Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata, il dibattito sul disavanzo della sanità, gli interventi per il trasporto delle merci su rotaia o per le vie d'acqua, la nuova legge per valorizzare le relazioni con gli emiliano-romagnoli all'estero e poi alcuni dei question time presentati dai consiglieri alla Giunta nell'ultima seduta dell'Assemblea. I conti della sanità infiammano le commissioni bilancio e politiche per la salute. A fare il quadro sono gli assessori alla sanità Raffaele Donini e al bilancio Paolo Calvano. In sintesi, il disavanzo è di 885 milioni. La Regione ne ha già trovati 493 e ne restano da reperire 392. La Commissione Salute Nazionale, coordinata da Donini, ha chiesto al Governo di risolvere il dramma dei bilanci in rosso delle regioni nel 2022, dovuti al mancato rimborso da parte dello Stato delle spese per la pandemia e all'aumento del costo dell'energia. Ma il Partito Democratico assicura che si sta lavorando per raggiungere il pareggio di bilancio. Sentiamo Francesca Maletti. Il bilancio della Regione Emilia-Romagna rispetto alla sanità per l'anno 2022 chiuderà in pareggio. Questo grazie a risorse messe in campo anche dal bilancio della Regione Emilia-Romagna per finanziare tutto un insieme di servizi e di attività attinenti al Covid, per cui alla cura e alla prevenzione e anche alle spese energetiche. È oggettivo che il buco di bilancio viene comunque ripianato per la maggior parte con spese, con riduzione di spesa dell'assessorato alla sanità e anche con una parte di risorse che verranno messe dal bilancio della Regione Emilia-Romagna. La Lega chiede un'operazione verità sui numeri del disavanzo, considerati troppo alti. Ecco le parole di Daniele Marchetti. Quando comunque la Regione Emilia-Romagna registra un disavanzo doppio rispetto ad altre realtà, qualche domanda bisognerebbe farsela. Dispiace che la Regione Emilia-Romagna e la Giunta non abbia fatto un minimo di autocritica di fronte a una situazione che pare lampante. Ma anche Emilia-Romagna coraggiosa insiste sul fatto che lo Stato debba aiutare le regioni. Ascoltiamo Federico Amico. Non vogliamo nascondere che ci siano dei problemi di carattere economico, ma questi problemi sono molto legati alle spese straordinarie di Covid e alle spese energetiche. Ed è ora che l'Italia si doti di un fondo per la spesa sanitaria allineato ai paesi dell'OCSE, che quindi aumenti l'importo della spesa sanitaria in relazione al PIL, che è tra i più bassi d'Europa. Per Fratelli d'Italia, dalle audizioni dei due assessori non sono arrivate le risposte attese. Ecco cosa ha dichiarato Marta Evangelisti. Sapevamo del buco di bilancio, ci aspettavamo una presa d'atto che qualcosa è stato sbagliato. Oggi c'è molta aspettativa nel governo, che sicuramente presterà attenzione alla Regione Emilia-Romagna, così come a tutte le regioni. Occorre però un ripensamento della politica sanitaria, soprattutto a livello regionale. Per Forza Italia, un buco di bilancio così importante non può essere imputato solo alle spese Covid o ai costi dell'energia. Sentiamo Valentina Castaldini. Abbiamo ribadito la preoccupazione per quanto riguarda Forza Italia di non dare solo la responsabilità al governo. Oggi abbiamo fatto un piccolo passo avanti, almeno riconoscere i numeri così come sono. Ci serve forza, soprattutto politica e soprattutto un'idea nuova di sanità in Emilia-Romagna. Sempre in tema di sanità, la Giunta ha risposto a due question time presentati in aula nel corso dell'ultima seduta di consiglio. Lia Montalti del PD ha chiesto modalità alternative all'identità digitale per riattivare le deleghe scadute sul fascicolo sanitario elettronico. Sentiamola. L'assessore Donini mi ha assicurato che da un lato si interfaccerà con l'Agenzia Nazionale affinché venga ripristinata la possibilità di avere la delega in maniera rapida e dall'altro mi è stato detto che l'EPIDA ha attivato un servizio pronto fin da subito per poter accompagnare le persone che non hanno la possibilità di creare lo SPID nelle modalità adesso previste a rendere più accessibile quindi il servizio. In un altro question time, Stefania Bondavalli, della lista Bonaccini, ha chiesto all'esecutivo regionale quali indicazioni abbia dato alle aziende sanitarie sulla ricollocazione di medici e infermieri non vaccinati e reintegrati nell'esercizio della professione. Siamo appunto contrari a questa decisione, abbiamo chiesto alla Giunta e all'assessore Donini di collocare e ricollocare queste figure in reparti non ospitati, in particolare da pazienti fragili. La risposta è stata affermativa, la Regione andrà in questa direzione posto che sono poi le aziende sanitarie locali a dover decidere nello specifico. Passiamo ad altro argomento, mettere in sicurezza la strada che da Rioveggio porta a San Benedetto Val di Sambro e che da Pian di Setta porta a Grizzana Morandi. È quello che ha chiesto Marco Mastacchi di Rete Civica con un question time. Sentiamolo. Ci sono strade che sono assolutamente non percorribili, quindi credo che sia necessario un intervento legislativo per riportare finanziamenti e attività sulle province, cosa che l'assessore ha ammesso e ha anche promesso di lavorarci per farlo. E a proposito di trasporti, la transizione ecologica dell'Emilia-Romagna passa anche dal trasporto ferroviario e fluvio-marittimo delle merci. Per centrare l'obiettivo europeo entro il 2030 di trasferire il 30% del trasporto merci che ora viaggia su strada, la Regione ha triplicato le risorse nel triennio 2023-2025, portandole a 9 milioni. Le risorse sono destinate per il 90% al ferro, mentre il restante 10% al settore fluviale. Sentiamo Gianni Bessi del Partito Democratico. Emilia Romagna si sta impegnando, grazie a risorse stanziate su questa legge, per aumentare questo tipo di trasporto sostenibile, di intermodalità dal mare alla gomma, al ferro e anche chiaramente utilizzando dove è possibile il trasporto fluviale. Io credo che sia la buona strada, occorre anche a livello nazionale di metterci non solo progettualità ma anche risorse. L'argomento è stato trattato durante l'ultima seduta dell'Assemblea legislativa con la relazione dell'assessore Andrea Corsini. Nella stessa seduta è stata approvata anche una risoluzione presentata dalla Lega ed emendata dal Partito Democratico. Sentiamo Emiliano Occhi, primo firmatario del documento. Questa risoluzione vuole incidere anche con anche l'aiuto di RFI, che la Regione dovrà contattare, per cercare di aumentare l'offerta di dotazione per l'intermodalità, in modo da riuscire ad aumentare anche il passaggio della merce da gomma a rotaia. Torniamo ad alcuni dei temi al centro dei question time in aula. Silvia Zamboni di Europa Verde ha chiesto di valorizzare l'attività svolta in questi anni dall'Osservatorio sulle morti sul lavoro su iniziativa di un privato cittadino, Carlo Soricelli. Sono tutte categorie che sfuggono dalle statistiche ufficiali perché riportano solo i decessi dei lavoratori e delle lavoratrici assicurati INAI. Ho sollecitato la Giunta in tal senso a far proseguire le attività dell'Osservatorio e quindi sono particolarmente soddisfatta che l'assessore Colla si sia impegnato appunto a dare un supporto al proseguimento dell'Osservatorio. Si rafforzano le relazioni con gli emiliano-romagnoli che vivono all'estero e i territori d'origine. L'Assemblea legislativa ha approvato la legge che intende valorizzare ulteriormente il ruolo di quanti rappresentano l'Emilia-Romagna all'estero. Sentiamo Marco Fabbri, presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo. Abbiamo introdotto alcune modifiche alla legge quadro della Consulta che tra l'altro favoriscono una maggiore partecipazione, come ad esempio per l'organizzazione di volontariato. Abbiamo esteso anche i soggetti destinatari e produttori presenti in Emilia-Romagna perché insomma è forte la collaborazione legata al food e le progettualità proprio indirizzate da parte delle nostre associazioni estere sull'enogastronomia. Grazie alle nuove disposizioni si potrà ampliare la platea dei destinatari degli interventi messi a bando dalla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo. Ecco la vicepresidente della Consulta, Valentina Stragliati. Esprimo soddisfazione per l'introduzione dei partner indiretti che possono partecipare ai bandi della Consulta e quindi devono associarsi o agli enti locali o alle associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, le APS, per i consorzi produttivi locali. Penso che questa rappresenti un'importante occasione di promozione territoriale in tutto il mondo e che consenta di stabilire e rafforzare nuove forme di collaborazione internazionali all'estero. La nuova legge istituisce anche la giornata degli emiliano-romagnoli nel mondo, fissata per il 2 luglio. In tale data ricorre l'anniversario dell'affondamento nel 1940 della nave Arandora Star, dove persero la vita oltre 800 persone, la metà dei quali italiani. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati sulle attività dell'Assemblea legislativa, seguiteci sui profili social e sul sito assemblea.emr.it. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia-Romagna, programma a cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini e Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire, direttore Mauro Sarti.